for in only I. E a me non basta la metà. Se tu scegliere non sai, scelgo io che male fa. Perdón.